Con una partecipazione più alta del previsto, 62% contro il 58% del 98%, la sinistra francese si afferma al primo turno delle elezioni regionali in Francia. Il Partito Socialista e i suoi alleati ottengono il 40,3% dei suffragi, mentre la destra di governo si accontenta di un modesto 35%. Terzo, localmente forte, il Fronte Nazionale di Le Pen, che si attesta sul 15%, mentre la sinistra trotschista rimane su valori minimi, 5%, senza confermare l'avanzamento delle ultime presidenziali, dove aveva toccato il 10%. Diverse le regioni che catalizzano l'attenzione. Per prima il Poitou-Charentes, che era stato presieduto dall'attuale primo ministro Jean-Pierre Raffarin, dal 96 al 2002, dove invece si afferma la lista di sinistra, guidata dal Ségolène Royal, con il 48% dei voti. Si tratta di una sconfitta pesante per il Premier, che sia pur non candidato, era rappresentato da Elisabeth Morin, presidente del 2002 e capolista per il partito di Raffarin. Sconfitta che di certo avrà delle ripercussioni in politica nazionale. La destra di governo comunque è avvertita, se la politica internazionale ha il supporto di tutta la Francia, quella nazionale di riforma del sistema pensionistico o di rimessa in discussione delle 35 ore lavorative, per citare solo gli elementi più lampanti, scontentano tutti. Il Partito Socialista ne guadagna, ma non perché esprima un'alternativa funzionale e credibile all'attuale maggioranza, raccoglie semplicemente un voto di protesta, troppo divisa e abulica la sinistra di François Hollande, che in cerca di carisma da spendere in questa campagna elettorale ha persino fatto risorgere dal proprio oblio il grande sconfitto delle ultime presidenziali, Lionel Jospin, segno che ancora si fatica a trovarne un degno successore. E che non valga la pena spolverarlo, olearlo e rimetterlo dove stava? In due anni di sua assenza la sinistra ha fatto pochissimo. Da Zurigo, Tito Gandini, reporter associati per Amisnet Radio.